Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti in questo weekend. Sono certa che anche voi come me sarete stati in balia di tante emozioni: paura, rabbia, impotenza, sdegno. L'attentato di Brindisi e il terremoto in Emilia hanno prodotto forti scosse emotive in tutti noi. Due esperienze traumatiche, differenti, con alcuni tratti comuni, tra questi l'estemporaneità e l'imprevedibilità. Di fronte a questo tipo di eventi viene naturale fare i conti con quella parte della nostra vita che non abbiamo la possibilità di pianificare e di controllare. Saluto Alberto Pellai, medico, ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta che è in linea con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi proveremo a leggere insieme queste due parole, estemporaneità e imprevedibilità, per capire che posto occupano nei nostri pensieri e come impattano nella gestione della nostra vita. Sì, sono proprio due parole di per sé spesso associate a un'emozione primaria positiva, che è quella della sorpresa. Se tu ci pensi, la sorpresa dentro di sé proprio queste due caratteristiche: è estemporanea, è imprevedibile, succede all'improvviso e ha delle conseguenze solitamente positive. L'evento traumatico è invece l'esatto contrario, cioè succede in modo estemporaneo, succede in modo imprevedibile, ma lascia nella nostra mente emotiva e nella nostra memoria emotiva invece tracce molto pesanti, molto profonde, connotate da emozioni negative, quasi sempre la paura, che addirittura si trasforma in terrore, e poi il dolore per tutte le conseguenze che derivano dall'evento traumatico. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24, perché vorremmo parlare anche di traumi con la T minuscola, che nel corso della vita ciascuno di noi incontra, che hanno le caratteristiche dei traumi di cui ci stiamo occupando: un amico che ci tradisce, un lutto, una diagnosi, il cambio repentino del lavoro, una cosa insomma che capita, non ci saremmo mai aspettati di doverla affrontare, e invece dobbiamo prendere le misure. 349-238-6666 se invece volete mandarci un messaggio. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera Università di Ferrara. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti voi ascoltatori. Professore, grazie per essere con noi. Lei tra l'altro vive a Ferrara e penso possa condividere un messaggio che mi ha mandato un suo concittadino, Aldo, che mi scrive: le scosse di terremoto le sento ancora sulla pelle e mi fanno sentire diverso nella mia pelle. Qualcosa è cambiato. È vero, dunque devo dire che tutto sommato noi abitanti a Ferrara città siamo stati relativamente privilegiati, se si può usare un termine brutto, rispetto a tutti gli abitanti dei piccoli paesi, piccoli e non piccoli paesi, a solo pochi chilometri da noi. Quindi mentre noi abbiamo avuto la grande paura ieri mattina con la grande prima scossa e ne abbiamo avvertite un altro paio, la persona che l'ha chiamata probabilmente è una invece delle persone che le avverte continuamente quello che sta succedendo nei paesi a pochi chilometri da noi, dove una dopo l'altra si susseguono, già credo siano parecchie decine, e veramente la sensazione anche di chi è venuto in ospedale è quella, sentivo le parole che usava il collega in precedenza, per queste persone aggiungerei quello che mi hanno detto a voce: impotenza, ineluttabilità. Alcuni hanno risposto con un senso di paralisi e poi una sensazione fisica, proprio veramente come diceva il signor Aldo, una sensazione fisica sulla pelle, però quasi fosse un fenomeno tangibile, non è solo l'onda meccanica, c'è un qualcosa di più. Quindi effettivamente condivido, almeno per sentito dire, quello che noi abbiamo provato a Ferrara abbastanza marginalmente, speriamo per il momento che sia finita per tutti. Certo. Ma altre persone sono molto meno fortunate di noi. Professor Manfredini, noi abbiamo spesso parlato con lei di cronobiologia. C'è una risposta fisica a traumi di questo tipo? Ma direi che al momento è ancora presto per dirlo, perché sono passate da poco le 24 ore, quindi a noi sembra già trascorso un tempo incredibile, in realtà è una giornata. Sì. E quindi chiaramente tutte le persone coinvolte, sia le persone colpite che le persone che ci stanno in questo momento impegnando per aiutare, ovviamente stanno lavorando senza mai fermarsi, senza guardare il giorno e la notte, quindi certo. Chiaramente in questo momento c'è una fase che ovviamente porterà ad uno sfasamento, ma è come fosse un jet lag breve di un grande viaggio, cioè tutti sono impegnati 24 ore al giorno a dare una mano e invece chi lo soffre lo sta soffrendo 24 ore al giorno. Ecco, professore, riprendo sempre un messaggio di un ascoltatore che non si firma e che fa, mi riaggancio a quello che lei ha detto, è passato solamente un giorno, invece sembra passato molto tempo, cioè quando viviamo una situazione di forte disagio psicologico ci rendiamo, abbiamo la sensazione che il tempo si dilati. Alberto, perché? Ma direi che riprendo proprio anche quello che ti ha scritto l'ascoltatore col suo SMS, cioè gli eventi traumatici entrano nella nostra mente e cercano un posto per potersi accomodare in qualche modo, per poter essere gestiti, ma sono di una tale intensità e di un tale impatto emotivo che non hanno la capacità di essere, chiamiamola così, diciamo così, metabolizzati molto velocemente, quindi rimangono molto vivi e molto attivi. E quindi quello che dice Aldo, cioè rimane una sensazione fisica, rimane che sulla pelle è scritta la traccia dell'emozione così intensa che ho provato la prima volta, ecco, questa è proprio una cosa che poi clinicamente potrebbe essere definita sindrome post-traumatica da stress, cioè arriva qualcosa di molto forte, molto intenso, la nostra mente non riesce a controllarlo, a gestirlo e a elaborarlo in tempi brevi e questo evento lascia una traccia che nei giorni successivi ci fa rimettere esattamente in quella posizione così spaventosa, così intensa dal punto di vista emotivo, che è l'esatto momento in cui la cosa è avvenuta per la prima volta. Solitamente questo genere di fenomeno si smaltisce poi o si esaurisce nel tempo per molte persone, per altre invece, che sono quelle che sono rimaste più intrappolate, più in balia dell'attivazione emotiva, è più difficile uscire da quell'evento, la mente è come incapace di integrare ciò che è successo con ciò che la persona ha sentito, con ciò che la persona riesce a pensare dell'evento che ha vissuto e quindi spesso si rimane un po' intrappolati dentro alla fatica, al disagio e all'incapacità di venire fuori. Professor Manfredini, noi oggi vogliamo declinare insieme ai nostri ascoltatori queste due parole, estemporaneità e imprevedibilità. Dopo l'esperienza del terremoto, in che cosa si sente cambiato? Lei che è un medico, è abituato al rigore della scienza, alla parola imprevedibilità, lei che cosa associa adesso? In questo momento, come dici tu prima, il termine impotenza. Perché siamo veramente abituati, ecco, come diceva giustamente lei, dall'estrazione, la professione, ma dall'estrazione culturale, a cercare di dare sempre, o comunque più delle volte, una risposta a qualcosa, una risposta fattiva. Sì, la sentiamo un po' male, la riprendiamo nel corso magari della trasmissione. Grazie al professor Manfredini. Proviamo a riprenderlo poi il collegamento, speriamo di poterlo poi sentire bene. Alberto. Sì. Volevamo fare questo salto con i nostri ascoltatori, no? Partire dal trauma con la T maiuscola per arrivare al trauma con la T minuscola, proprio perché vogliamo anche parlare di eventi improvvisi che hanno un po' cambiato il corso della nostra vita e che forse devono, proprio come i grandi traumi, essere non scotomizzati ma metabolizzati. Sì, direi che poi questa è un po' la storia della nostra vita per così come la gestisce la nostra mente, cioè tutto quello che ci succede, in particolare tutto quello che di brutto ci succede, dovrebbe trovare nel nostro cervello un cassetto dove poter essere infilato, etichettato e ben sistemato. Quando questo lo riusciamo a fare, cioè quando troviamo il posto giusto nella mente per ogni ricordo, e quel ricordo è in qualche modo gestito ed elaborato bene, ecco, quello è un ricordo di cui diventiamo consapevoli ma che non ci disturba più. Se invece è un ricordo, un evento traumatico molto intenso, anche poco intenso, però che in qualche modo ci fa soffrire molto, non trova il suo giusto cassetto dentro la nostra mente, ecco, quel cassetto continua ad avere del materiale che straripa, che non è stato messo in ordine, che non è stato messo al giusto posto, e quel materiale che non ha il suo giusto posto spesso riattiva una sensazione di dolore e di disagio in situazioni successive della vita, quando ci troviamo a rivivere più o meno direttamente, più o meno consapevolmente, degli eventi che ci fanno sperimentare quelle stesse emozioni che ci avevano fatto stare così male in passato. Alberto, vuoi farci degli esempi, così possiamo coinvolgere anche i nostri ascoltatori a raccontarci le storie, come anche a raccontarci come hanno provato a metabolizzarle, a superarle, perché nel superamento di un trauma, si legge anche nei trattati, c'è sempre poi un'occasione. Per esempio, proprio prendendo come riferimento gli eventi che adesso noi guardiamo al telegiornale, se qualcuno ha vissuto un evento simile nel corso della propria vita, rivedere al telegiornale la descrizione di un terremoto con tutti i danni che ne derivano, con i volti affaticati, pieni di paure delle persone che ci sono lì in quel momento, ecco, in una persona che non ha superato il trauma del terremoto che ha vissuto lei invece magari 20 o 30 anni prima, può bastare questa visione in televisione per sperimentare un dolore ancora molto, un disagio molto profondo e molto intenso. Questo per gli eventi traumatici maggiori, ma per esempio storie di lutto passate di quando eravamo bambini, in cui magari gli adulti hanno voluto proteggerci con la tecnica dell'escluderci da tutto, ma noi però vedevamo la sofferenza delle persone intorno a noi. Ecco, quando rientriamo in un'esperienza di lutto, da adulti spesso si riaccendono tutte quelle memorie non gestite, non elaborate, e l'adulto che sta così male è spesso un adulto che va a recuperare quel dolore di un bambino che stava molto male e che non poteva parlare, condividere le emozioni intense che stava provando. Alberto, ti fermo perché abbiamo recuperato il professor Manfredini in linea da Ferrara. Professor Manfredini, mi sentite meglio adesso? Adesso la sentiamo meglio. Okay. E quindi, riprendendo quello, lo spunto era da questa sensazione di impotenza che lei... Sì, perché in questo momento, specie chi fa la nostra professione, si stuppia in questo momento, perché da una parte c'è il clinico, c'è il professionista che è abituato a dare delle risposte, che cerca comunque di dare delle risposte, e cerca di darle in un momento su un argomento particolarmente difficile, e l'altra parte c'è la nostra metà di noi che invece la sta vivendo come cittadino, e quindi chiaramente si pone tantissime domande, e come diceva il collega prima, da una parte magari forse si riallaccia inconsciamente a delle reazioni o dei momenti passati, ma soprattutto cerca di porsi il problema di cosa può succedere. Oggi abbiamo la casa, domani non ce l'abbiamo più, cerchiamo di attaccarci al lavoro perché possiamo essere utili ad altri, però è un momento difficile, insomma, quindi capisco che il collega che si occupa di psicologia in questo momento è molto più forte di me, che sono un semplice clinico internista abituato a parlare di cuore, di polmone, di reni, eccetera. Professor Manfredini, io la ringrazio per essere stato con noi, ci sentiremo, un abbraccio. E grazie a voi, buona giornata a tutti e speriamo che finisca presto, certo, per le persone coinvolte. Certo, assolutamente. Grazie Alberto. Noi continuiamo invece con i nostri ascoltatori, che possono intervenire all'800 24 00 24. Quando la vita ci mette di fronte a quella parte che noi non riusciamo a gestire, a controllare, molti di voi mi stanno scrivendo: io che sono ansioso, tocco con mano che la vita mi sfugge dalle mani, non è tutto controllabile, non è tutto prevedibile, non lo è nelle piccole cose, nella vita di tutti i giorni, non lo è nelle grandi cose, il terremoto in Emilia ce lo dimostra, ne parliamo nel corso della trasmissione insieme ad Alberto Pellea e degli altri ospiti. Dopo i mercati, il meteo, noi torniamo insieme con le vostre storie, piccoli e grandi traumi che ci dimostrano e ci mettono così a contatto e di fronte all'imprevedibilità della vita. Essere e benessere. Il rimedio all'imprevedibilità della sorte, alla caotica incertezza del futuro, è la facoltà di fare e mantenere promesse. Hannah Arendt. E noi riprendiamo il passo, in linea con noi abbiamo Alberto Pellai, stiamo riflettendo sull'impatto emotivo che queste due grandi esperienze traumatiche che abbiamo vissuto direttamente o indirettamente nel scorso weekend producono nella nostra vita. Renzo da Venezia, Alberto da Brescia, Pierpaolo dalla provincia di Bologna, 800 24 00 24. Buongiorno Renzo. Innanzitutto a Lorenzo. A Lorenzo. Ok, va bene lo stesso. Niente, io chiamavo per dare un po' la conferma a quello che diceva il suo ospite prima relativamente al fatto che finché non metabolizziamo certi avvenimenti nei nostri cassetti della mente continuano a farsi del male. Io anni fa ero, quando c'è stato l'attentato a Sharm el-Sheikh, ero lì a poca distanza e quindi quella notte improvvisamente io e mia moglie abbiamo subito il trauma di questo attentato, le bombe, il terrore eccetera. Poi a distanza di tempo, pur avendo capito cos'era successo eccetera, mi capitava che andavo a un paese, c'era la sagra con la festa del paese, i fuochi d'artificio, il momento dei fuochi d'artificio per me era panico assoluto. Certo, quindi, perché non aveva metabolizzato, come ci spiegava Alberto, esatto, Pellai, questa esperienza. Ma volevo chiedere ad Alberto se questo succede anche in altre situazioni, in traumi più piccoli, un tradimento, un lutto, una diagnosi improvvisa. Alberto, succede anche questi piccoli traumi, piccoli rispetto a questi di cui parliamo oggi, se non adeguatamente metabolizzati vengono fatti richiamare subito in superficie da un dettaglio, una parola, un'immagine? Allora, la cosa che ci dice Lorenzo è molto importante, perché quello che lui dice è che il trauma fondamentalmente è entrato dentro di lui attraverso un suono, un rumore, che è quello della deflagrazione. Quella è la parte proprio che ha la sensazione che si è connessa a un'emozione non gestita ed elaborata, e a quel punto ogni volta che il cervello registra esattamente quel suono e quindi quella sensazione, lo ributta nella situazione in cui si è vissuta l'esperienza traumatica, e questa per i traumi maggiori. Quello che dici tu, cioè le esperienze poi negative della vita, che sono quelle situazioni in cui le persone che per esempio ci vogliono molto bene ci hanno deluso, e tipicamente questo ha a che fare con la nostra infanzia. I traumi con la T minuscola sono quella serie di sequenze di eventi negativi di mamma e papà che non ci hanno fatto bene in termini di equilibrio emotivo. Ecco, noi 20 o 30 anni dopo, di fronte per esempio a un fidanzato o una fidanzata che ci trattano male, che ci dicono una parola che ci fa sentire umiliati o in vergogna, immediatamente mettiamo quella parola dentro a quel cassetto semiaperto dove non abbiamo ancora risistemato quel senso di umiliazione e vergogna che ci derivava per esempio dal fatto di avere un papà che ci denigrava, e ci ritroviamo esattamente in quella situazione di partenza, cioè l'adulto che vive quella situazione che lo fa stare così male, in realtà immediatamente va a prendere per mano quel bambino che è stato così tanto male e che nessuno ha mai confortato e consolato. Alberto da Brescia, 800 24 00 24, e poi Pierpaolo dalla provincia di Bologna. Alberto, benvenuto e buongiorno. Grazie, buongiorno anche a voi. Io volevo un po' un consiglio, perché mi rilascio un po' tutto quello che è stato detto fino adesso. Io ho due figlie, una in particolare ha 7 anni adesso, sì, e quando ne aveva 5 ha perso la nonna e dopo alcuni mesi anche il nonno, a cui era molto legata, era legatissima, e a distanza ancora di 2 anni vedo che qualsiasi notizia, qualsiasi trasmissione o telegiornale che dà delle immagini o anche solo delle notizie di avvenimenti siamo tristi, piuttosto che il terremoto o qualsiasi altra cosa, riattivano questo ricordo. Certo. Non vuol mangiare, non vuol più uscire a cena con noi, con altre persone, dalla bambina solare qual era lei, è diventata molto più timorosa, e appunto con queste chiusure, con questi timori che la fanno appunto, certo, smettere di mangiare. Io un'altra domanda ancora: quando successe questi lutti, non so se correttamente o sbagliamo, non la facciamo partecipare né al funerale. Si fa, Alberto, spesso si cerca in questo modo di proteggere i bambini. Forse in questo modo questo è un percorso che li porta un pochino lontano, rende difficile fare quello che Alberto Pelai ci spiegava che può essere proprio la metabolizzazione. Ma Alberto, che cosa si può rispondere? Ma direi che un po' il papà ha già dato la domanda e la risposta, cioè il fatto che noi pensiamo che i bambini per essere protetti debbano non vedere, non sentire, non sapere, è in realtà un falso, perché poi dentro una famiglia in cui si vive un lutto, le facce degli adulti, i volti, i visi, le espressioni, le parole dette nell'altra stanza, le telefonate che quando arrivano ti obbligano ad andare in un altro luogo, ecco, tutto questo succede sotto gli occhi dei nostri bambini, che vedono esattamente tutto quello che si sta verificando, e in questa sorta di protezione in cui li vorremmo mettere, in realtà a loro togliamo il potere e la possibilità di poter parlare di ciò che sentono dentro. A questo papà direi che forse la cosa che serve di più adesso è proprio fare un po' un percorso al contrario, cioè non avere paura di prendere la propria bambina per mano e di dirle: alla domenica mattina andiamo sulla tomba dei nonni e portiamo dei fiori, se vuoi puoi scrivere o puoi dettarmi una lettera o un breve pensiero che lasciamo sulla tomba della nonna, e magari non tanto per farmi pubblicità, ma perché credo proprio che sia un libro che serva davvero tanto ai bambini che si trovano un po' in questa situazione. Abbiamo fatto insieme agli autori della Melevisione un libro proprio per bambini che devono un po' elaborare il lutto, si chiama Perché non ci sei più, è edito dalla Erickson, e dentro ha un'intera puntata della Melevisione che affronta proprio il tema della morte, aiutando i bambini a capire che nessuno può dare risposte certe. Noi non possiamo far star bene un bambino dicendogli che la morte non esiste o non entrerà mai nella nostra vita, però noi possiamo dare rassicurazione a un bambino facendo sentire che c'è tutto un mondo di adulti che di fronte alle situazioni difficili e complesse saprà stargli vicino e non avrà paura di dire insieme a lui le parole che fanno paura. Pierpaolo dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve. Io abito a San Pietro in Casale, sì, è nella cerchia dell'epicentro, a 10 chilometri dall'epicentro, quindi praticamente in pieno epicentro. Sì. Forse si sente anche dalla mia voce. Sì, Pierpaolo, come sta lei? Bene, perché grazie al cielo nessuno dei miei cari né me stesso abbiamo avuto dei problemi, sì, fisici né, come posso dire, di casa. Di danni, pertanto. Sì. Però è durissima, perché a parte che la stanchezza dovuta al non sonno sicuramente influisce molto sullo stress, e questo lo potrà confermare credo anche il medico, insomma. Sì. E poi io ieri ho fatto un giro a trovare parenti, suoceri, madre, padre nei paesi che invece hanno avuto crolli. Sì. E le dico, forse in città questo non si percepisce più, ma nei piccoli paesi, mi scusi la voce, ma ma Pierpaolo, io la ringrazio per essere stato con noi, anche perché la sua testimonianza, il suo racconto ci aiuta anche a riflettere e mi permette anche un po' a starle vicino, perché è giusto parlare di, no? Parlare anche con un po' degli amici, mettere a disposizione anche delle persone questi stati d'animo, perché io credo molto nella rete. Pierpaolo. Nei piccoli paesi, stavo dicendo, a differenza che nelle grandi città, vedere venire giù campanili e comuni è un po' come quando si perde il papà e la mamma, perché li vedi tutti i giorni, non gli dai importanza, ma sai che ci sono. E invece vederli venire giù è una cosa... Sì, che stringe il cuore. Sì, perché tu col sindaco nei nostri paesi ci fai colazione al bar. Sì. Mentre nelle grandi città questo non lo percepisci, da noi vedere venire giù il comune o la chiesa è un'emozione. Cioè, naturalmente, per l'amor di Dio, io sono vicino anche alle persone che hanno la casa molto danneggiata, e questo l'hanno fatto vedere poco le televisioni, si sono spettacolarizzate su comuni e chiese, e quindi queste persone che hanno perso la casa o comunque la danneggiata, che non ci possono entrare, purtroppo sono migliaia di persone. Sì. Ma se avessero avuto, forse se avessero avuto l'appoggio di vedere perlomeno il proprio campanile, quello che hanno sempre visto, il proprio comune, che invece adesso il comune è un gazebo davanti al comune distrutto, e le messe ieri le hanno fatte per strada, è sì, qualcosa di non raccontabile. purtroppo spero che nessuno lo provi. Lo provi. E io Pierpaolo la ringrazio per averci chiamato e per averci raccontato. Noi siamo qui, Pierpaolo, e un abbraccio. E adesso noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme con Luca dalla provincia di Modena. Essere e benessere. Voglio salutare il professor Alberto Oliverio, psicobiologo dell'Università Roma La Sapienza, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo ancora sempre in linea Alberto Pellai. Professore, io non so se lei ha avuto modo di ascoltare la telefonata del nostro ascoltatore che ci raccontava quanto può essere devastante vedere nei piccoli paesi crollare il campanile. Lui faceva l'esempio, secondo me calzante, almeno a me ha colpito molto, dicendo che sono un po' come i genitori, no? Si sa, li vedi tutti i giorni, si sa che sono lì e poi improvvisamente quando non ci sono più ripensi e rivedi tutta una serie di situazioni, fai bilanci, mancanze. Professore, eventi molto impattanti di cui stiamo parlando oggi, che hanno delle ripercussioni sia sulla vita di chi li vive proprio sulla pelle, sia di chi li sente raccontare o li vede in televisione. Che cosa succede nel nostro cervello? Ma anzitutto quello che diceva il nostro ascoltatore è indubbiamente, diciamo, della nostra memoria, della nostra vita, della nostra personalità, fanno parte una serie di relazioni con le persone, con le cose, quindi siamo affezionati non soltanto alle persone ma anche ai luoghi in cui viviamo, alla, come dire, ripetibilità delle situazioni, a dei punti fermi che noi riteniamo debbano essere tali per sempre, e quindi vedere o scomparire una persona o soprattutto così vedere crollare dei monumenti, le chiese, i campanili, che sono associati sin dall'infanzia al nostro modo di vivere, è particolarmente doloroso. E poi certo noi, come dire, pensiamo sempre di più di poter controllare la realtà perché viviamo in un ambiente tecnologicamente avanzato. Io penso che all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento, si fosse un po' più abituati all'imprevedibilità e al pensare che le cose potevano all'improvviso cambiare. Anche se, diciamo, gli esseri umani pensano sempre di poter controllare ciò che succede intorno a loro, però oggi ci siamo meno abituati e quindi eventi come questi sono ancora più disgustanti. Voglio dare la parola a Luca che ci chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno Luca, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, sì, la sentiamo. Ecco, io in realtà sono un modenese e ora risiedo a Verona città, però sono originario e ho i genitori proprio, non so se lei ha seguito, penso sì, indubbiamente tutta la vicenda del terremoto, io sono originario di Finale nell'Emilia, certo, quindi che uno dei paesi più colpiti dal sisma. Esatto, e quindi stavo ascoltando poco fa la trasmissione, io in questo momento sono in auto, mi sto recando a portare aiuto soprattutto alla mia popolazione. Ecco Luca, allora, e tante volte venendo da fuori, portando aiuto, uno dice sì, ma qual è l'aiuto che posso dare? Quali sono le parole, i gesti, i silenzi che aiutano? Luca, cioè come si... è giusto? Pronto? Luca? Sì, sì, prego. Immagino che ci si chieda anche, andando ad aiutare, andando a sostenere i parenti, quale sia il modo migliore per farlo. Sì, infatti, perché io lo ritengo abbastanza difficile perché spesso non si trovano, non avendolo vissuto in prima persona, cioè per tutto l'aiuto e il conforto che si può dare. Spesso non vengono le parole, ma chiediamole ad Alberto Pellai e al professor Oliverio. Alberto. Ma in realtà in situazioni così complesse non è che ci sono molte cose che noi dobbiamo dire, perché quello che è veramente importante è far sì che la persona che sta male trovi un modo per comunicarci il suo star male. Comunicare lo star male significa in qualche modo prenderlo da dentro e portarlo fuori, e già questo è di per sé un gesto molto molto terapeutico, per cui in questo momento lo stare per qualcuno significa stare con qualcuno che sta male, e quindi condividere è in assoluto l'aspetto principale. Credo che poi la cosa che veramente renda particolarmente faticoso tutto è la sensazione sensazione di impotenza, il sentire, sperimentare che non c'è niente che io posso fare. Allora, tutto quello che da impotenza può diventare potenza e quindi competenza è auspicabile, e in questo senso può proprio bastare, per esempio, fare da mangiare per qualcuno che non ha più la cucina disponibile, mettere sì, cose, a disposizione cose qualcosa, semplici ma che diano l'idea della vita che continua, e da quella sensazione che sei in balia di qualche cosa che non puoi controllare e che invece ti mette nella posizione di anch'io posso fare qualcosa. Professor Oliverio. Ma sì, sono d'accordo con Alberto Pellai, senza dubbio condividere emotivamente con il calore umano è un grande aiuto. Poi c'è l'altro aspetto, quello del fare, insomma, di poter dare una mano, come si dice. Penso che ce ne sia molto bisogno, è una cosa che va organizzata, però in Emilia c'è un forte spirito comunitario, penso che assolutamente questo renderà, mi auguro, insomma, più facile il lavoro di soccorso e di ricostruzione. Alberto, tre consigli, perché abbiamo proprio poco tempo, per parlare di questi eventi ai bambini. Terrorismo, abbiamo detto, terremoto, scusate, eventi come la strage di Brindisi. Ma direi non avere prima di tutto paura della paura, quello è il primo meccanismo che invalida per un bambino la possibilità di poter raccontare agli adulti quello che prova e quello che sente. Quindi se noi giriamo in casa con delle espressioni terrorizzate, i bambini, sentendo il nostro terrore, bloccheranno la loro possibilità di condividere con noi quello che provano e quello che sentono. Due, non aver paura delle parole. Le parole sono proprio punti di snodo che permettono di rendere visibile ciò che di invisibile c'è dentro di noi. Quindi saper parlare, saper anche chiedere che paura hai, come ti senti, come stai. E poi non avere paura dei gesti, cioè di fronte a cose che non sappiamo controllare, abbracciare una persona che ha paura, andare vicino al letto di un bambino che fatica ad addormentarsi, stringergli forte la mano in un momento in cui ha particolarmente paura, gli dà il senso della vicinanza e della sicurezza di quelle relazioni stabili che lui ha vicino e che gli saranno vicino in ogni momento di difficoltà. Grazie ad Alberto Pellai e al professor Alberto Oliverio, grazie per essere intervenuti. Io vi saluto, vi do appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Potete naturalmente scaricarci, raggiungerci via mail o sul nostro profilo Facebook. Buona giornata, Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. A domani. Essere e benessere.